Avventurieri, assicuratevi di avere tutto l'essenziale. Controllate il vostro inventario con provviste, oggetti utili e punti abilità. E preparatevi al viaggio. Avvicinate ora il tag inventario allo schermo.